triste mia nonna, che compie 63 anni. Penny è molto simpatica, lo giuro, troppo simpatica, con la sua felicità che gli mette allegria, la sua sensazione gli si colora il mondo. Per tante volte le ha creduto che cosa sarebbe mai stato, che io e mia nonna Barbara saremmo stati da un po', e che poi ho solo dato affetto e amore con la sua bellissima sensazione d'amore. Barbara è molto bella, lo so, ma mi dà più soddisfazioni in assoluto, lo so, è che poi mi ama con tutto il cuore. Per lei l'adoro tanto perché è così bella. Quanto duce sta nonna? La dur. E fu così che ha festeggiato il suo compleanno il mercoledì 6 agosto. Io mi sono emozionato che ha fatto questo compleanno. Sì, ve lo giuro, che io sarò il vostro amore, come sempre vi avrei voluto abbracciare, ma sarei per sempre la vostra stella con tutto il mio cuore, e vi amo. Vi adoro, nonna Barbara, sei la mia vita.